America 24 di Mario Platero. Buongiorno e benvenuti ad America 24 da Cabo San Lucas, Mario Platero, anche qui, anzi soprattutto qui al G20 di Cabo San Lucas in Baja California, in Messico, dove si tiene quest'anno il G20, le elezioni in Grecia, i risultati delle elezioni in Grecia attesissimi hanno rasserenato gli animi. Ah, che gusto traigo! Perché traeré tanto gusto? Pues porque andas gustoso, mijo! Hágame segunda, pa. La Baja California è quella lunga penisola di 1280 chilometri che divide l'Oceano Pacifico a ovest dal Mar di Cortez nel Golfo della California, dal continente messicano. Beh, qui ieri notte è arrivato il Presidente del Consiglio Mario Monti, abbiamo avuto un primo incontro in cui ci ha detto di essersi rallegrato per i risultati delle elezioni in Grecia, sentiamolo. Pur in condizioni difficili il popolo greco abbia capito qual è il valore dell'Europa, speriamo adesso che venga formato al più presto un governo forte e che ci sia la conferma degli impegni presi con l'Unione Europea. Tutto questo unito a un maggiore orientamento dell'agenda europea verso le politiche per la crescita, di cui si gioverebbe molto anche la Grecia, consente di avere una visione piuttosto serena del futuro dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Ma la Grecia è solo un tassello del mosaico che si sta cercando di ricomporre qui allo Skabos. Il problema centrale è ben più vasto della Grecia e della stessa Europa. È un problema che riguarda la crescita. Vi è un rallentamento generalizzato dell'economia mondiale. Quel che preoccupa è che alcuni dei grandi locomotori come l'India, la Cina, gli stessi Stati Uniti ormai da qualche tempo si trovano in difficoltà. E vediamo l'India: nel primo trimestre del 2012 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente il PIL indiano è cresciuto solo del 5,3%, tra il 2000 e il 2012, pensate la differenza, il PIL invece è cresciuto a una media del 7,3% con un picco dell'11,8% nel dicembre del 2003. Cina, proprio ieri abbiamo saputo che 40 città su 70 hanno avuto nel mese scorso prezzi delle case in forte diminuzione. Nel primo trimestre 2012 l'economia cinese è cresciuta dell'8,1%, certo sono tassi per noi spaventevoli, enormi, fortissimi, però sono in rallentamento rispetto all'8,9% del quarto trimestre solo dell'anno scorso, il peggior risultato in 11 trimestri, inferiore alle previsioni, 8,3-8,5%. Soprattutto abbiamo avuto di nuovo ieri un dato che stima la crescita per il secondo trimestre al di sotto addirittura dell'8%. In questo contesto Angela Merkel si è trovata isolata non solo nei confronti dell'Europa, ma a questo punto in un contesto addirittura globale. Clearly at the top of the leaders' minds is the global economy. And give the leaders an opportunity to talk about the challenges facing global economic growth and the recovery, and particularly the challenges emanating from the Eurozone. Michael Froman è lo sherpa della Casa Bianca, il coordinatore dei lavori del G20 per l'amministrazione americana. L'ho incontrato qui ai margini dei lavori preparatori all'Hotel Barceló. E ha detto che per gli Stati Uniti l'Europa resta la questione centrale. Occorre che l'Europa si dia da fare, faccia qualche cosa di concreto. La crisi europea è la peggiore minaccia all'economia globale e americana. Come far ripartire la crescita diventa una sfida per tutti. The headlines will focus on reducing risks to global economic growth and development. Lael Brainard, sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali, ha detto che la speranza è che il G20 possa accelerare una soluzione della crisi in Europa grazie anche all'impegno della Germania nei riguardi del processo di integrazione europea. E arriviamo infine a una domanda che ho fatto ieri sera al Presidente del Consiglio Mario Monti proprio sui progressi che si stanno cercando di fare qui nei lavori preliminari al G20, nei lavori degli Sherpa. Sentiamo lo scambio. Presidente, grazie. Solo una cosa sulla crescita, perché si è parlato oggi, la Germania resisteva, alla fine sembra che si sia trovato un compromesso per la questione della crescita, e cioè che nel momento in cui si dovesse confermare che la crescita non continua, si dovrà fare uno stimolo della domanda. Ecco, e il problema è la domanda, e lei pensa che la Germania alla fine troverà un compromesso? Mi fate domande come se fossimo alla fine del G20, siamo prima dell'inizio del G20, e sono temi molto importanti che voi sapete qual è la posizione del governo italiano e sapete quali sono le dinamiche anche all'interno dell'Unione Europea. Credo che le prospettive si stiano avvicinando e questo è positivo. Mario Monti dunque possibilista, ottimista su quel che si può fare. Vi do un po' di background, ho raccolto delle indiscrezioni, sono entrato addirittura nel salone dove gli Sherpa del G20 si sono riuniti ieri pomeriggio qui all'hotel Barcelò, una grande stanza con un enorme tavolone quadrato, le delegazioni erano attorno a questo tavolo, discutevano i paesi emergenti in contrasto con i paesi industrializzati, ma direi dentro la sala ho trovato un'atmosfera piuttosto civile, grandi scambi di documenti, si continuano a correggere delle frasi e ho saputo che la parola chiave su cui si è litigato veramente per parecchio tempo ha riguardato il termine stimolo della domanda. Ecco, da quel che ho saputo la dinamica è stata questa: gran parte dei paesi volevano spingere per uno stimolo della domanda per poter sostenere la crescita, la Germania si è opposta, non voleva che si usasse lo stimolo della domanda per non trovarsi poi vincolata in qualche modo a dover prendere delle iniziative non solo a livello interno ma anche a livello europeo per introdurre politiche fiscali, diciamo così, più permissive. E la discussione è andata avanti in modo piuttosto serrato e poi mi è stato confermato che c'è stato un momento di svolta, quasi un applauso generalizzato, quando si è saputo che in Grecia le elezioni erano andate bene nel senso che il referendum sull'euro, perché questo era poi diventato l'elezione greca, era passato, era andato nella direzione giusta. A quel punto anche la Germania è stata un po' più possibilista, ho potuto vedere alcuni punti della bozza della dichiarazione finale che sarà resa nota domani, e la soluzione che alla fine si è raggiunta dal punto di vista semantico è che una serie di paesi si impegneranno a sostenere la crescita nel momento in cui si dovesse confermare una debolezza della domanda. Un unico neo ieri sera, vi avevo anticipato che l'unica notizia certa che forse avremmo avuto qui dal G20 messicano poteva essere quella del lancio del firewall, dei nuovi contributi al Fondo Monetario Internazionale che si sarebbero aggiunti agli stanziamenti già decisi in Europa per stabilizzare il problema del debito sovrano. Ebbene, c'è stato un colpo di scena, il Brasile ha fatto le bizze, il Brasile resiste perché vuole avere garanzie che vi sia un riallineamento delle quote nel contesto delle organizzazioni multilaterali, in particolare nel contesto del Fondo Monetario Internazionale. La decisione per un riallineamento a favore dei paesi emergenti era stata presa, ma non è stata ratificata da alcuni parlamenti nazionali, fra questi gli Stati Uniti, e dunque il Brasile ha semplicemente detto che non darà i suoi contributi fino a quando non si saranno introdotti questi cambiamenti. Devo dire che questo potrebbe essere un problema, perché si contava sul contributo al fondo di 430 miliardi di dollari, si sarebbe unito a circa 700 miliardi di dollari già stanziati in Europa fra IFSF e ISM, quindi per un totale di circa 1.100-1.200 miliardi di euro. Ecco, forse ci sarà un ritardo, ma forse saranno i leader a quel punto a superare l'impasse tecnico che non sono riusciti a risolvere gli Sherpa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Pratero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, G20 a Los Cabos messicano. Dunque, vorrei farvi ascoltare un classico di Michael Carr e Jimmy Kennedy nell'interpretazione di Frank Sinatra, canzone meravigliosa, struggente, che spero sia fonte di ispirazione, che comunque spero ci faccia dimenticare alcuni dei problemi con cui si apre questa settimana. South of the Border, Down Mexico Way. South of the border, down Mexico Way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way. She was a picture in old Spanish lace, just for a tender while I kissed the smile upon her face. 'Cause it was fiesta and we were so gay south of the border, Mexico way. Dallo Scavos è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.